Scuola in controluce. Speciale verso le superiori. Eccoci qua, siamo pronti a dare il via al nostro speciale dedicato ai ragazzi e alle loro famiglie che in questo periodo, altro che pensare ai regali di Natale, sono alle prese con una scelta molto importante, quella della scuola superiore, anzi, per usare la terminologia corretta, con la scelta della scuola secondaria superiore. Ci rivolgiamo dunque a tutti i ragazzi di terza media, ai loro genitori, perché davvero non saprei dire se è più dura per i ragazzi in questo periodo o per i genitori, e io ne so qualcosa. Insomma, non sarà la scelta della vita sicuramente, ma non è nemmeno da sottovalutare, perché studiare 5 anni materie che ci rendiamo poi conto mano a mano che non fanno per noi può mandare davvero in crisi e può diventare una vera e propria sofferenza. Quindi stasera cercheremo di darvi una mano a fare la scelta giusta, o perlomeno a darvi qualche indicazione che possa aiutarvi a fare qualche sciocchezza in meno, come dicevamo poco fa nel GR. Fra un attimo vi presenterò i miei ospiti qui in studio, che mi aiuteranno a rispondere alle vostre domande e dissipare almeno qualcuno dei vostri dubbi, speriamo almeno. Potete intanto cominciare a chiamarci per intervenire in diretta all'800 24 0024, oppure potete mandare i vostri sms al 349 238 6666. Allora, eccoli qua i nostri ospiti in studio: Daniele Grassucci, responsabile di scuola.net, buonasera. Buonasera a tutti. Francesco Dell'Oro, del Servizio Orientamento del Comune di Milano, e autore del libro Cercasi Scuola Disperatamente, un libro gustosissimo che chiunque deve leggere in questo periodo se deve fare una scelta del genere. Buonasera. Buonasera. E poi Innocente Pessina, che è preside del Liceo Classico Berché di Milano. Mi ha fatto notare che, naturalmente, come molti presidi in questo periodo, è anche reggente di altre scuole di Milano. Buonasera Pessina. Allora, intanto cominciamo dalla notizia fresca, l'annunciavamo poco fa nel GR. Poco fa è stata diffusa la circolare in cui ci sono tutte le indicazioni per l'iscrizione alla prima classe di ogni ordine. Naturalmente noi questa sera ci stiamo occupando dell'iscrizione alla scuola superiore. Allora, cominciamo a guardare che cosa dice questa circolare, qual è l'ABC. Daniele, aiutaci tu, intanto la data. Sì, innanzitutto si può partire dal 21 gennaio fino al 28 febbraio. E quest'anno la novità è che l'iscrizione si potrà fare solo ed esclusivamente online, quindi ci sarà un sito che il Ministero metterà a disposizione, si spera con accesso quanto più facilitato possibile, e attraverso questo sito sarà possibile iscriversi alla scuola che si è scelta e si verrà informati dell'aggiornamento della pratica attraverso l'email. Però ecco, per le famiglie che non hanno disponibilità di questi mezzi, poi sarà possibile attraverso le scuole, sia quella di destinazione sia quella propria di appartenenza, di fornire assistenza affinché tutto vada a buon fine. Quindi insomma non si verrà lasciati soli, però ecco, la scuola 2.0, così tanto cara al ministro Profumo, per la quale lui si è battuto, insomma sta cominciando a prendere forma. Insomma, l'obiettivo è quello di dematerializzare i registri, le pagelle e anche il processo di iscrizione. Anche se insomma qualche difficoltà potrebbe esserci, Dell'Oro, perché insomma le iscrizioni solo online sono impegnative non solo per le famiglie ma anche per le segreterie, e insomma il sistema speriamo che regga. Beh, molte famiglie non saranno in grado di fare questa scelta e dovranno ovviamente fare riferimento alle segreterie delle scuole, le quali saranno sicuramente caricate di un ulteriore lavoro e dovranno sapersi organizzare. Vabbè, speriamo bene. Dell'Oro, resto con lei, perché mi dica solo una cosa: quante famiglie sta incontrando in questo periodo? Lei, perché non solo va nelle scuole a spiegare ai ragazzi qual è l'offerta, no? fra le quali possono scegliere, ma incontra anche le famiglie, anzi in particolare forse le mamme con i figli. Le mamme sono pericolosissime, lo dico ovviamente con affetto. Ma io posso fornirvi un dato: nei primi anni 2000, nel 2000-2001, noi facevamo 200-250 colloqui. Lo scorso anno, come servizio orientamento scolastico del Comune di Milano, siamo arrivati a 1130 colloqui. Quest'anno supereremo ampiamente questa quota. C'è forse una maggiore attenzione da parte delle famiglie, ma probabilmente anche una preoccupazione eccessiva. Dobbiamo forse un po' di ristabilire, ansia eccessiva. Sì, gestirla con un po' più di tranquillità, via. Pessina, sì. Che cosa le chiedono le mamme? Perché insomma scegliere un liceo classico è una scelta impegnativa, ha già fatto un open day, quindi insomma che cosa le chiedono le famiglie? No, non abbiamo fatto solo un open day, abbiamo fatto diversi incontri anche all'interno del nostro liceo. Chiedono tante cose e noi rispondiamo dicendo: date credito al consiglio orientativo degli insegnanti della scuola media. Sono insegnanti che conoscono i vostri figli ormai da almeno 3 anni e quindi credo che abbiano una qualche ragione per dare un consiglio corretto. Quindi bisogna, al di là delle aspettative che ogni famiglia ha, dare molto peso a quello che dicono gli insegnanti delle scuole medie. Ecco, il consiglio orientativo che proprio in questi giorni viene consegnato alle famiglie, dell'oro ci azzeccano sempre gli insegnanti, ogni tanto conviene solo tenerlo, diciamo, come una delle tante indicazioni da seguire. I dati statistici che abbiamo ci dimostrano che la maggior parte delle ragazze e dei ragazzi che seguono il consiglio orientativo degli insegnanti delle scuole medie hanno un esito positivo poi nelle scuole superiori. Quindi non va sottovalutato. Non va assolutamente sottovalutato. Ciò detto, c'è anche un altro dato, statisticamente minore, ma che ci dimostra che in alcuni casi ci siamo sbagliati, anche perché c'è poi un dato prezioso che va sempre custodito, che è l'imponderabilità nei processi di crescita, di maturazione di questi ragazzi. Non dobbiamo dimenticare che stiamo chiedendo a dei ragazzi di fare una scelta nel momento meno adatto, in un momento abbastanza critico, che è il momento dei grandi cambiamenti a livello fisiologico, a livello cognitivo, a livello relazionale. Non è una scelta facile, non è una scelta impossibile, ma la capacità di ascoltarsi e di confrontarsi fra i vari protagonisti, fra i compagni di viaggio in questa scelta, insegnanti, genitori e studenti, diventa fondamentale. Ed è possibile fare una scelta, secondo me, abbastanza consapevole. Allora, sentiamo però a questo punto i protagonisti, no, di questa scelta, perché sono loro, sono i ragazzi di 13 anni, un'età difficile questa. Chiedere a dei ragazzini di 13 anni cosa vogliono fare è dura, spesso non sanno neanche che scarpe mettersi alla sera, o forse sanno solo quello in realtà. Ma soprattutto non carichiamo eccessivamente di significato questa scelta. Mi riferisco al fatto che a volte i genitori pensano già a cosa devono fare dopo la scuola superiore. No, il criterio fondamentale è la passione, l'interesse, la curiosità rispetto a questa scelta. Preoccupiamoci di questi 5 anni, anche perché fare previsioni sul futuro, adesso, onestamente, sul mercato del lavoro, non ce la facciamo su pochi mesi. Infatti. Allora, sentiamo questi ragazzi, in particolare sentiremo dei ragazzi che sono autori di una radio, un giorno forse mi ruberanno il lavoro, una web radio, si chiama Radio Immaginaria. Radio Immaginaria! Radio Immaginaria! Radio Immaginaria! Radio Immaginaria! Come state? Siete carichi per la puntata alle porte natalizie? Ciao a tutti! Siamo carichissimi e siamo pieni di spirito natalizio perché appunto questa puntata parleremo proprio di Natale. Infatti adesso partiamo su... Ecco, questa è una puntata che ho scaricato perché mi faceva piacere condividerla con loro. Fanno dei lavori veramente molto interessanti, il linguaggio naturalmente di ragazzini di 13 anni, ma se avete l'occasione di andare sul loro sito davvero potete ascoltare le loro puntate, sono gustosissime. Allora colleghiamoci con Ludovica, Lorenzo e Nicolò. Buonasera! Ciao, io però sono Giulia. Eccola qua, e tu sei Giulia, è un classico. Sì. Ciao Giulia. Allora, raccontami un po' intanto dove siete, che cos'è Radio Immaginaria e poi ti chiederò anche se hai scelto la scuola. Allora, adesso noi siamo a Castel Guelfo, abbiamo appena finito di fare la nostra puntata, come tutti i lunedì. Allora, Radio Immaginaria è la voce di noi adolescenti, è la prima web radio italiana formata da adolescenti. Ed è un po' la nostra voce, noi parliamo delle nostre opinioni, parliamo dei nostri pensieri, tutto quello un po' che ci capita, che ci passa per la mente, noi lo diciamo. E mi sa che in questo periodo i vostri pensieri sono rivolti anche alla scelta della scuola superiore, perché tu sei in terza media, almeno questo è giusto? No, io sono un po' più grande, però fantastico. Mi ricordo molto, molto bene la scelta della scuola. E tu che scuola, scusami, che scuola fai e che sì. Classe fai? Io faccio il liceo classico e sono in prima liceo, quindi diciamo sono in realtà al terzo anno. Ci hai azzeccato o ti sei pentita, vorresti tornando indietro fare un'altra scuola? No, ci ho azzeccato perché ho seguito la mia passione, ho seguito il mio cuore, ho seguito le cose che mi piacevano e sono contentissima di averla scelta perché è proprio una mia passione. Io è dura, ma è la tua scuola. Sì. Allora Giulia, adesso mi passi uno dei ragazzi che invece in terza media deve scegliere la scuola. So che siete un gruppetto lì. Sì. Chi mi passi? Ciao, sono Ludovica. Oh, Ludovica, ciao. Tu sei in terza media? Sì. E quindi sei alle prese in questo periodo con questa difficile scelta. Come ti stai orientando? Io penso di scegliere un classico. Anche tu? Pessina, anche oggi abbiamo tutti gli studenti del classico. È una bella scelta. È una bella scelta, lo sai sì che devi studiare, non ti fa paura questo? Sì. No, cioè direi di no. Perché maggiormente di solito le cose che fanno più paura di un classico agli studenti, diciamo giovani che sono appena entrati a far parte del liceo, sono più che altro le materie greco e latino. Ma a me non spaventano tanto, direi. Bene. Più che altro mi dicono che devo studiare un sacco nei primi 2 anni, ma poi dopo è più facile. Ma ti sento, dell'oro, la sento bella decisa, non credo che ci ripenserà. Sì, sì. Sosteniamola no, per penso. Questa scelta. Non hai bisogno di... Che dice il tuo consiglio orientativo? Ah, il mio mi hanno appena dato il pagellino e c'era scritto tutti i tipi di licei. Quindi... Vabbè, allora. Io ho una curiosità, posso chiedere a Ludovica se sta già facendo un breve corso propedeutico di latino, di greco? No, io non sto ancora, mi sa che non lo faccio e non lo faremo, brava. Mi sembra. Perché la mia scuola non organizza questi corsi qui. Però preferisco avere la sorpresa quando arriverò. Fa bene a non... Sì, assolutamente, perché io credo sia una patologia che già in terza media si iniziano a fare questi corsi che non fanno altro che appesantire il percorso di studio di questi studenti. Devono fare bene l'analisi logica, l'analisi grammaticale. Poi arriveranno al liceo e ci penseremo noi. Ludovica, chi ci passi? Allora, io vi faccio parlare con Lorenzo. Ciao a tutti, sono Lorenzo. Ciao Lorenzo, tu hai già scelto o devi scegliere? No, ho già scelto, penso di andare a Bologna, però al liceo Fermi tradizionale indirizzo scientifico. Liceo scientifico, non hai dubbi, non hai avuto bisogno di grandi colloqui, mamma è d'accordo? Sì, ma mia madre gli va bene tutto, cioè per dire basta che io studi e vada bene, poi perché lei è contraria ai genitori che devono imporre la scelta ai ragazzi e questo neanche io lo trovo giusto, cioè ogni ragazzo ha la libertà di scegliere la sua scuola, il suo liceo, senza che i genitori o gli amici li condizionino, cioè possono dare un consiglio, ti possono indirizzare, ma alla fine la scelta è nelle tue mani. E certo. Questo non lo puoi cambiare. Anche perché sei tu che poi devi studiarle quelle materie, se non ti piacciono, insomma, non le studieranno mica mamma e papà, quindi è giusto così. Lorenzo, anche tu, qui a Radio Immaginaria, tutti i ragazzi belli decisi, eh? Non c'è qualche indeciso fra voi? Sì, e dopo ve lo passerò qualche indeciso, ma io per lo più non sono indeciso sul tipo di liceo quanto all'indirizzo del liceo. Comunque è Nicolò quell'indeciso. È Nicolò, allora sentiamolo un indeciso, perché altrimenti sembra che siete tutti convintissimi e temo che non sia lo specchio, insomma, di tutti i vostri compagni. Nicolò. Ciao. Ciao Nicolò. Oh, finalmente tu invece non lo sai ancora cosa vuoi fare. Io sono l'indeciso. Oh, l'indeciso. No, ero indeciso su se frequentare un tecnico o un artistico. Diciamo che mi puntavo di più sul tecnico, perché l'artistico non so di preciso quali sono gli sbocchi. Ti puoi informare però, no? Dell'oro sì. Ci saranno tanti mezzi per informarsi bene, forse non è ancora allora, tanta voglia, Nicolò. No, beh, intanto... No, gli open day, certo. Gli open day sono un'occasione straordinaria per questi ragazzi, fondamentale. Anzi, invito sempre i genitori a portare i ragazzi, perché loro hanno, io le chiamo delle antenne, che noi genitori non abbiamo. Sanno cogliere sensibilità, attenzioni, livelli di accoglienza... E quindi possono essere dei protagonisti importanti in questi Open Day, che ci sta anche un po' di marketing, lo sappiamo, però è un'occasione importante, l'incontro con i dirigenti scolastici e i docenti. È l'incontro con i testimoni privilegiati. Per quanto riguarda questo ragazzo che si chiama? Nicolò. Beh, se sceglierà l'artistico, intanto deve tranquillizzarsi, perché c'è un biennio in comune e quindi la scelta poi di merito la potrà fare al secondo anno fra 6 indirizzi. Potrà scegliere fra arti figurative, architettura e ambiente, l'indirizzo multimediale audiovisivo, il design, la grafica o scenografia. Poi magari tutti questi 6 indirizzi nella sua area territoriale non ci saranno, ma quel biennio gli consente di scegliere fra questi indirizzi. Certo, il liceo artistico è molto cambiato rispetto a molti anni fa, quando ci consentiva di arrivare al diploma di maturità artistica al quarto anno e basta. Venne sostituito col progetto Leonardo e oggi i ragazzi che lo scelgono devono sapere che al di là degli indirizzi, cioè delle materie di indirizzo, mi riferisco a storia dell'arte, materie plastiche, pittoriche, eccetera, dovranno studiare italiano, matematica, fisica, chimica, filosofia dal terzo anno in avanti. C'è un dato quindi interessante. Quindi non è che si disegna e basta. Un dato interessante dell'Istat, e chiudo su questa breve parentesi, su 100 iscritti all'università col diploma dell'artistico, il 32,3% ha scelto il gruppo letterario e il 30,9% la facoltà di architettura. E poi tutti gli altri si spalmano su tantissimi corsi. Se uno vive con passione questo corso di studi, ha veramente una buona tante base. Tante possibilità. Invece, sempre per Nicolò, per quanto riguarda il tecnico, deve sapere che se apre la porticina dell'istituto tecnico troverà 2 percorsi, il settore economico e il settore tecnologico. Nel settore economico troverà 4 corsi, in quello tecnologico 9 indirizzi. Ma tutti e due questi percorsi hanno un biennio in comune. Quindi anche lì si prende un po' di tempo. Una volta individuata l'area o economico o tecnologico potrà scegliere. I ragazzi di Radio Immaginare. Allora, abbiamo sentito Giulia, Ludovica e Lorenzo decisissimi, Nicolò un po' meno. Chi mi passate adesso? Adesso li passiamo a Carlotta. Carlotta, ciao. Ciao. Buonasera. Allora, Carlotta, tu hai già scelto, devi scegliere, oppure hai scelto e hai sbagliato? Allora, io ho scelto e sbagliato. Cioè, eccola non qua. È proprio stato uno sbaglio. Io ho iniziato a fare il liceo delle scienze umane, mm-hmm. Perché a me le materie umanistiche sono sempre piaciute, rapportarmi con altre persone, secondo me è la cosa più importante. E poi che è successo? Poi è successo che sono stata bocciata e l'anno dopo ho continuato a fare quella scuola, ma proprio il rapporto con i professori, che secondo me è fondamentale in una scuola, e proprio non mi piaceva, allora sono passata al Cassiano che è operatore tecnico sociosanitario, che è simile, però è un tecnico. E la tua vita è stata migliore, il tuo percorso di studio a quel punto è filato liscio? Sì, sono molto più tranquilla, ho la media del 7 e dell'8, quindi diciamo che sono proprio... È la scelta giusta, ma tu guardando indietro puoi dire di aver fatto qualche errore oppure è stato inevitabile? Insomma, era la scuola che volevi fare e poi ti sei accorta che purtroppo non era così, oppure non era la scuola adatta, proprio quella scuola, insomma, nel rapporto con i professori. Per dare un consiglio a chi ci sta ascoltando, no? Per evitare magari un errore che hai fatto tu. Allora, se mi chiedessero adesso di ritornare in quella scuola, al liceo delle scienze umane, ci ritornerei senza pensarci due volte, perché proprio è una cosa che, cioè, proprio mi piace, ma ho sempre avuto le idee chiare fin dalle elementari, diciamo. E, però anche questa scuola in cui sono adesso, cioè, mi piace molto, anche perché le materie umanistiche ci sono, quindi la scuola, diciamo, quindi insomma hai conservato quel tipo di studio che a te interessava in qualche modo. Sì, è proprio, cioè, se a uno piace rapportarsi con le persone è la scuola bene. Migliore, diciamo. Allora, io ragazzi vi ringrazio, vi lascio andare a nanna perché insomma domani c'è scuola, ragazzi. Purtroppo sì. Allora io vi ringrazio. C'è qualche domanda che volete fare ai nostri ospiti oppure ci salutiamo qua? Ma diciamo che ci salutiamo qua. Bene, grazie mille ai ragazzi di Radio Immaginaria e in bocca al lupo anche per la vostra esperienza in radio, eh? Un giorno magari ci venite anche a trovare, visto che siete dei nostri, come dire, concorrenti, si può dire? Con piacere. Buonanotte ragazzi. Grazie mille. Allora, abbiamo sentito i ragazzi, perché ovviamente sono i protagonisti poi di questa serata, perché tutto ruota intorno a loro. Qualcuno ha sbagliato, qualcuno invece per fortuna ha scelto la scuola giusta. Ma l'altra componente di questa puntata sono sicuramente i genitori, che hanno un ruolo fondamentale. Quei genitori che vengono da lei e del loro così carichi di ansie, lei lo sa bene con le migliaia di persone che vede. Allora, siamo in collegamento con Rita Di Goro, che è presidente dell'AGE Toscana. Buonasera Rita. Buonasera a tutti. Allora, quando i nostri figli devono scegliere una scuola, ovviamente noi non è che ci teniamo da parte, insomma, no? Ovviamente vogliamo che la scelta sia quella giusta, vorremmo aiutarli, a volte facciamo anche peggio, forse, però insomma vorremmo aiutarli. E come li vogliamo aiutare? Naturalmente cercando di spiegare loro come sono le scuole, però non è facile raccontare le scuole a questi ragazzi, nel senso che si va agli open day, si conosce il preside, però come si fa a giudicare una scuola? È una difficoltà questa per le famiglie? Sicuramente sì, un po' è stato anche detto, perché l'open day chiaramente una scuola fa vedere il meglio di sé, ovviamente. E poi molto conta nella formazione di un giovane e il rapporto che ha con gli adulti di riferimento. Ha detto molto bene la ragazza prima, la scuola sua era quella che ha scelto, era quella giusta, però non si è trovata assolutamente con gli insegnanti. È vero che con l'open day i ragazzi possono percepire un pochino il clima, questo anche i genitori, però ecco, si può fare magari un percorso prima, cioè lavorare con gli insegnanti delle medie, perché sono loro che fanno l'orientamento. Riuscire insieme a loro a capire quali sono le potenzialità di nostro figlio, quali sono le aree che li possono interessare, è importante. Questi ragazzi sono ragazzi impegnati, a quanto ho capito, nella radio, per cui sono ragazzi che magari hanno fatto una riflessione sul proprio progetto di vita, si conoscono, hanno acquisito una sicurezza, però non sono tutti ragazzi, così, è certo. No, purtroppo no, io ho avuto due figli che hanno voluto tutte e due fare il tecnico industriale, non eravamo nemmeno tanto convinti, gli abbiamo spiegato le nostre ragioni, l'hanno voluto fare. Le avete lasciati fare, giustamente. Sì, però ecco, le altre amiche mie mi dicevano che fortuna che hai, almeno loro sanno cosa vogliono fare, noi non sappiamo, perché la famiglia ci mette in gioco praticamente tutto, perché il futuro dei figli molto certo. Può dipendere da scegliere bene la scuola. Pessina, torna questo tema degli open day, no? Sì. Diceva che voi l'avete fatto. Insomma, la sensazione è un po' che però negli open day i presidi raccontino un po' la scuola che vorrebbero più che la scuola che è, o sbaglio? So che chiederlo a un preside, ovviamente. Ma sì, poter dire che invece noi abbiamo cercato di essere onesti e sinceri. Devo dire che ho visto, per esempio, una scuola a noi vicino che nel presentare la propria scuola aveva messo addirittura su un giornale che quel giorno ci sarebbe stata addirittura una squadra di calcio. Ecco, io credo che scegliere una scuola solo perché si presenta, come dire, con la carta patinata, con gli effetti speciali, sia sbagliato. Poi ai genitori mi piacerebbe poter dire che la scelta la devono fare i figli, cioè non va scelta una scuola in base alle aspettative dei genitori. La mia esperienza dice che laddove c'è stato un fallimento, soprattutto nei primi anni, quando gli studenti poi abbandonano, se ne vanno e vanno da il signor Dall'Oro, no? Chiedere appunto qualche consiglio orientativo, e perché la scelta l'hanno fatta le famiglie più che gli studenti, magari perché quella scuola l'aveva fatto il papà, il nonno, lo zio. Allora, sì, capita, ecco, spesso, quindi... vorrebbero che magari poi facessero l'università che hanno fatto loro e magari così disegnano già un percorso che non necessariamente ovviamente deve essere quello del figlio. Rispondiamo a qualche telefonata, perché ci ha chiamato Andrea dalla provincia di Viterbo. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Raccontaci qual è il tuo problema, ammesso che tu abbia un problema, se vuoi fare una domanda ai nostri ospiti. Allora, praticamente io vi chiamo perché in realtà volevo farvi una domanda. Io frequento la terza media e in realtà a me piacciono moltissimo le lingue, quindi vorrei andare a fare il linguistico. Però io volevo chiedere se secondo voi può essere una scuola valida, ecco, al giorno d'oggi, oppure bisogna optare per il classico oppure per lo scientifico. Beh, ma se ti piacciono le lingue, il classico forse non è la scelta più giusta, ma facciamo rispondere Dell'Oro. Dell'Oro, gli piacciono le lingue? Beh, il liceo linguistico, il nuovo liceo linguistico richiede fra l'altro... l'apprendimento di 3 lingue straniere dal primo anno fino al quinto anno. I ragazzi studieranno latino per 2 anni, trovano una buona formazione umanistica, culturale, storico, filosofica. È un ottimo corso di studi, tenendo presente che c'è il famoso CLIL, cioè i ragazzi che scelgono il linguistico devono essere ben attrezzati sulle lingue, perché dal terzo anno dovranno studiare una disciplina non linguistica e lingua straniera, terzo, quarto e quinto anno, e dal quarto anno un'altra disciplina non linguistica in una diversa lingua straniera. Ed è un corso di studi che, se seguito con attenzione e con curiosità, può dare tantissimi sbocchi, sia a livello professionale, già col quinto anno, dopo l'esame di Stato, ma è un ottimo passaggio, dà anche ottime credenziali per l'università. Ottime, ottime. Andrea, quindi vai tranquillo con il linguistico, eh? Beh sì, io ringrazio ovviamente, però io ovviamente credevo, io ho questa idea, io vorrei finire le superiori, ecco, il liceo, e poi vorrei andare all'estero a fare l'università, perché credo che se questo paese non si aggiusta, non si aggiusti, credo che non ci sia futuro per noi giovani. Andrea, mi sembra che anche tu abbia abbastanza le idee chiare e poco da chiedere. Vai al linguistico e poi vola via. Magari speriamo anche per tornare, insomma, altrimenti ti perdiamo e sarebbe un peccato. Grazie Andrea, ringraziamo Andrea che ci ha chiamato. Ciao. all'800 24 00 24. Marcello invece dalla provincia di Fermo, buonasera. Buonasera, salve. Lei invece è un papà. Sì, io sono un papà e, come penso tanti genitori, ho mia figlia che deve fare questa scelta, no? Sì, che cosa vorrebbe fare? Mia figlia, la mia domanda era questa qua, che mia figlia è molto indecisa per quello che vuole fare, no? E vedo che lei a scuola è molto condizionata delle amiche, di quello che faranno le amiche, perché magari c'ha la sua migliore amica... lei va al classico e penso che lei, la sua scelta vada sul classico, ma non lo so se è perché le piace o perché lo fa l'amica. Daniele, tu su scuola.net hai realizzato un sondaggio in cui emerge un dato macroscopico, cioè che 1 su 2 ancora non ha proprio scelto. Sì, questo è anche un dato abbastanza drammatico se pensiamo che tra poco più di 2 mesi si chiudono le iscrizioni, però il tasso degli indecisi tant'è ad oggi è quasi del 50%. E poi abbiamo chiesto ai ragazzi di spiegarci i motivi, cioè quali sono le motivazioni che sono alla base della scelta, e quello che abbiamo visto è che ben l'80% dei ragazzi rivendica la paternità della scelta in base all'abilità e appunto alle proprie passioni, però c'è un 7% che invece dice di scegliere in base ai consigli degli amici o alla scelta dei propri amici, quindi non è infrequente. Eccolo qua, il caso di Marcello, di voler scegliere una scuola forse solo perché va l'amica. Sì, e in questo caso io parlerei con la ragazza e cercherei cercherei di farle capire che gli amici in qualche modo a questa età si fanno abbastanza facilmente, si riesce, i ragazzi hanno proprio in questa fase di socialità della vita una forte capacità di stringere rapporti d'amicizia, quindi di non farsi condizionare una scelta così importante come quella della scuola da un'amicizia che comunque loro potrebbero continuare a mantenere anche in una scuola diversa. Insomma, le amicizie vere restano, sì, e poi se ne fanno anche di sì, nuove. Io faccio un esempio personale, ad esempio con il mio socio, il fondatore, uno dei fondatori di scuola.net. ecco, pur non avendo fatto l'università insieme, abbiamo continuato a lavorare insieme, abbiamo adesso una società insieme, cioè per dire che anche se si separano i percorsi a diverso livello, dalle superiori all'università, comunque se si ha un qualcosa che ci accomuna si rimane amici. Certamente, quindi insomma Marcello, il consiglio è quello davvero di non fermarsi alla scelta della scuola perché ci va l'amica, non è proprio un buon criterio. C'è un tempo per i baci sperati, desiderati, tra i banchi della prima B, occhiali grandi, sempre gli stessi, un po' troppo spessi, per piacere ad una così. Nell'ora di lettere, guardando sincronismo dei movimenti, coi gesti lenti, conosciuti solo in teoria, come nelle favole, fin sopra le nuvole, convinti che quell'istante durerà da lì all'eternità. Lo strano percorso. Torniamo dunque a parlare di scuola, come scegliere questa benedetta scuola superiore. Torniamo con Rita Di Goro, presidente dell'AGE Toscana. Allora, Rita, quanto sarebbe bello, per esempio, se sui siti si trovassero le valutazioni delle scuole? Quanto sarebbe più facile per le famiglie? Sarebbe senz'altro più facile. Invece però... di fare un passaparola fra mamme, chi dice una cosa... Sì. Però ecco, secondo me è importante l'aspetto proprio emotivo di accoglienza. Ora, questa domanda che faceva il genitore prima, se il mio parere da mamma dopo aver cresciuto due figli alle superiori, se il ragazzo ci va volentieri e studia volentieri, qualunque sia il motivo, alla fine dei giochi l'importante è che studi volentieri per 5 anni e che prenda un diploma. Poi dopo, una cosa che io ho verificato è che poi comunque i ragazzi sono in grado di riconvertirsi benissimo, perché poi magari recuperano, anche se noi magari pensiamo che trascurino una parte importante per il loro futuro, anche delle loro potenzialità, loro sono in grado poi di riconvertirsi e come no, e come di ricoprire no. Gli spazi. Se invece fanno una scuola troppo pensata, tipo il ragazzo prima diceva mi piace l'arte però non so se faccio il tecnico, bisogna un po' buttarsi insomma, piace, certo, perché poi uno un lavoro, una soddisfazione, in questo momento è importante anche riuscire a cogliere tutte le potenzialità di lavoro, certo, perché il lavoro non è più quello classico, fai il ragioniere, fai il geometra, ora c'è una differenziazione enorme, per cui con qualsiasi diploma, se uno è preparato e ha voglia di fare, riesce a trovare qualcosa. La sua strada. Grazie mille, grazie mille a Rita Di Goro, presidente dell'AGE Toscana, e salutiamo invece Elena Ugolini, sottosegretario del MIUR. Buonasera. Buonasera, grazie per essere qua con noi. E allora, un po' avrà sentito, un po' no, perché so che è impegnatissima in queste ore. E insomma, come si possono aiutare queste famiglie? Qual è il consiglio che potrebbe dare lei e che vorrebbe dare lei? Perché per esempio io le chiedo non rendere pubblici i risultati dei test invalsi? Potrebbe essere un modo per aiutare le famiglie? Il primo modo per aiutare le famiglie penso sia quello di aiutare le famiglie a capire come sono i loro figli, perché a volte in casa i figli non rivelano anche delle doti, delle capacità delle attitudini che possono rivelare a scuola. Quindi io penso che il primo modo sia quello di un dialogo molto stretto tra genitori e i docenti delle scuole secondarie di primo grado. Poi io penso che sia molto importante come genitori, io ne ho 4 di figli, ne sa qualcosa? Ascoltarli e cercare di capire quali sono le loro passioni. Ho sentito parlare di passioni, di interessi, anche vedere come sono fatti, no? Perché per certo. Alcuni bambini e ragazzini stare 4 ore sui libri è un inferno, per altri invece è meraviglioso immergersi in un libro. Quindi crescendo poi cambieranno e verranno fuori magari anche in altri modi, però è importante nel momento dell'adolescenza assecondare le loro persone, i loro interessi e anche le loro attitudini. E poi come aiutare la scuola come Ministero dell'Istruzione e come istituzioni scolastiche, raccontando quel che facciamo. All'interno del sito del Ministero c'è un settore, una sezione che si chiama Scuole in Chiaro, dove è possibile andare a cercare le scuole della propria città e vedere già ora come sono strutturate, quindi quanti studenti, quanti insegnanti e che tipo di offerte presentano, quanti sono i ragazzi che usufruiscono anche di possibilità di mobilità internazionale, che tipo di rapporto c'è con il mondo del lavoro nel caso si tratti per esempio di istituti tecnici e di professionali. Quindi questo certo già è un aiuto importante, può essere un aiuto, certo. Sì, infatti, è una specie di Google Map delle scuole che ovviamente dobbiamo migliorare, però penso che sia un utile sussidio, no? a un rapporto però personale che deve esserci, perché io consiglio sempre di andare a vedere la scuola dove si passeranno 5 anni della vita. E certo, anche per respirare un po' l'atmosfera, sì, insomma, certo. Ragazzi, come diceva Dell'Oro, hanno delle antenne che noi adulti forse non abbiamo e quindi raccolgono dei messaggi che magari noi non cogliamo. Ma insomma, si può fare di più comunque per rendere un po' più trasparente anche quanto fanno le scuole e quali sono poi i loro risultati. A questo proposito, Golin, resti con noi perché abbiamo in linea anche Andrea Gavosto della Fondazione Agnelli, che salutiamo e ringraziamo. Buonasera. Buonasera. Voi ci avete provato a classificarle queste scuole ad aprile. Ci continuiamo a provare. E continuate anche a provarci, perché appunto ad aprile avete stilato una classifica delle migliori scuole statali paritarie, un elenco di 453 nomi fra licei e istituti tecnici. Si tratta di una specie di classifica realizzata in base a voti, tempi e crediti del primo anno di università di coloro che ovviamente sono usciti dalle singole scuole. Lo studio è stato realizzato su 4 regioni, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Calabria. Insomma, ci deve essere un modo per aiutare queste famiglie a valutare le scuole? Sì, diciamo, questo lo spirito è esattamente quello che diceva lei, cioè aiutare, diciamo, le famiglie a orientarsi in questa che è una scelta, poi abbiamo sentito nella serata, abbastanza complicata sia per i ragazzi che per le famiglie. Quello, diciamo, il contributo che diamo noi è un pezzettino di un quadro più generale, nel senso che guardiamo come le singole scuole preparano poi per il percorso successivo all'università, ovviamente estendendo, uno potrebbe andare a ritroso, magari guardare come le medie preparano per le superiori, discorrendo. Però credo che sia importante, sia un po', diciamo, uno dei tasselli con cui una famiglia o gli studenti stessi possono decidere il loro futuro. E allora, Ugolini, si può fare di più per rendere note alle famiglie le performance, non so se le vogliamo chiamare così, delle scuole? Ma in questo momento ci sono 1200 scuole in Italia che stanno avviando un processo che poi verrà allargato a tutte le scuole italiane, che è quello di costruire un proprio rapporto di autovalutazione che poi diventerà un rapporto pubblico pubblicato sul sito della scuola e su Scuole in Chiaro, in cui far capire anche dal punto di vista numerico quali sono gli indicatori che possono raccontare la qualità della scuola, il tasso di assenze degli studenti, dei docenti, il turnover, l'esito in ingresso non solo nell'università ma anche nel mondo del lavoro, il tasso di successo nelle certificazioni linguistiche, i dati sulle ore dedicate anche al recupero, alla cura, anche dell'eccellenza o di progetti particolari. La scuola è una realtà complessa e fare delle fotografie a due dimensioni sarebbe sbagliato. E quindi il lavoro che noi stiamo facendo come Ministero, mettendo a frutto anche il grande lavoro che è stato fatto in questi anni dall'Invalsi con le rilevazioni esterne degli apprendimenti, e però di dare anche altri indicatori che diano un quadro di riferimento nazionale in base al quale poi ogni scuola possa costruire un rapporto che sia un segno di trasparenza e anche di desiderio di rendicontazione pubblica, ma utilizzando dei dati di riferimento che hanno un valore a livello nazionale, regionale e provinciale. Ugolini, approfittiamo della sua presenza. Oggi è stata diffusa la circolare sulle iscrizioni. Iscrizioni quest'anno soltanto telematiche, esclusivamente telematiche. Insomma, è un bel salto di qualità. Veramente voi state dando in anticipo una notizia che poi si troveranno tutti i dirigenti scolastici domattina sulla propria posta elettronica, quindi vi ringrazio perché avete anticipato una notizia importante, no? Perché adesso ci sono più o meno 530.000 studenti che stanno decidendo che cosa fare da grandi. L'iscrizione online è un modo per semplificare. Moltissime famiglie hanno la possibilità di usare la posta elettronica e usare quindi internet per semplificare delle procedure che altrimenti avrebbero richiesto a genitori, non so, di chiedere un giorno di ferie per poter andare a scrivere personalmente di persona il figlio a scuola. Quindi mi sembra un grande passo in avanti. C'è però la disponibilità da parte delle segreterie ovviamente di compilare l'iscrizione online nel caso in cui le famiglie non siano in grado di farlo. Quindi insomma grossi problemi non dovrebbero essercene, perché la scuola interviene ad aiutare le famiglie che dovessero averne bisogno. E comunque insomma è un altro piccolo grande passo avanti della scuola, che si sta davvero facendo più tecnologica. L'abbiamo visto anche oggi con la prima prova della preselezione del concorsone. La ringrazio moltissimo, Elena Ugolini, sottosegretario del MIUR. La ringraziamo per averci dedicato un po' del suo tempo. Invito Andrea Gavosto rimanere per qualche minuto in attesa. Ora c'è il GR, poi torneremo anche con le vostre telefonate all'800 24 00 24, gli SMS 349 238 6666. Andrea Gavosto della Fondazione Agnelli, è con lui che riprendiamo a parlare della scuola superiore, di come scegliere quella giusta. 800 24 00 24 il numero verde per intervenire in diretta. Gavosto, come la scegliamo questa benedetta scuola? Quali criteri possiamo seguire? Quali criteri potremmo suggerire che vengano introdotti perché si possano giudicare in maniera un po' più rigorosa? Ma sicuramente, diciamo, qualche criterio comincia ad affiorare, diciamo, dopo anni in cui la scuola si esponeva, come dire, poco al giudizio esterno, adesso si sta progressivamente aprendo, quindi ne abbiamo parlato prima anche col sottosegretario Ugolini, Scuola in Chiaro comincia a dare informazioni diciamo sulle principali statistiche della scuola, ci sono esperimenti di valutazione basate sulle prove Invalsi, sulle visite ispettive che cominciano a funzionare. Però devo dire, visto che appunto qui dobbiamo dare sostanzialmente dei consigli dei ragazzi, il punto è che le informazioni che abbiamo oggi sono essenzialmente relative alla scuola. Molto spesso quello che fa la differenza è la singola sezione, la singola classe, quindi diciamo, il colloquio con i... Quindi diventa ancora più complicato, perché poi si va dal preside a mendicare la sezione dove c'è l'insegnante bravo, Pestina, chissà quante volte le sarà capitato, so che c'è quell'insegnante di latino che è brava, disponibile, però insomma non tutte le famiglie hanno delle mamme così intraprendenti, diciamocelo, e poi non è neanche giusto, no, che vengano messi quelli che chiedono nella sezione migliore e gli altri nelle altre. No, assolutamente, totalmente, appunto, tra l'altro qui creiamo anche un'ingiustizia, perché tipicamente i genitori che si informano, che vanno a parlare con i presidi, eccetera, sono anche quelli più avvertiti, quindi spesso pensiamo ai ragazzi stranieri, che ormai sono una quota consistente nelle nostre scuole, magari i genitori sono un po' più resti a chiedere un colloquio, esattamente, certo. Esattamente, quindi diciamo, è chiaro che il lavoro di scelta è molto complicato, e da un certo punto di vista le scuole stesse, a cominciare dal preside, dovrebbe fare un esercizio di trasparenza, cosa che spesso non succede, quindi cercare di capire qual è magari la sezione o il gruppo di professori più adatto per quel ragazzo. Da quel punto di vista, devo dire, la creazione di questi istituti comprensivi, che sono una novità, certo. Sì, che diciamo non riguardano necessariamente le scuole superiori, però sostanzialmente cercare di, come dire, creare un passaggio più fluido magari dalle medie alle superiori, per cui quando diciamo il ragazzo va o la ragazza vanno alle superiori, diciamo il preside e i professori dovrebbero già avere un ritratto abbastanza attendibile. Preciso. Sentiamo Gavosto che cosa ha da dire Mauro, che ha chiamato all'800 24 0024. Mauro che chiama dalla provincia di Varese, buonasera. Sì, buonasera. Ci dica Mauro. Senta, io volevo ritornare sulle considerazioni che sono state fatte un po' a inizio trasmissione sui criteri di scelta che in qualche misura dovrebbero essere adottati, e si parlava di ascoltare i ragazzi, valutarne le curiosità, le passioni, gli interessi. Ora, ma qualora queste caratteristiche non fossero così evidenti o non si manifestassero, quindi insomma se il ragazzo dice anche lui ma io non lo so quello che voglio fare, sì, o comunque, va benino, diciamo, non benissimo nessuna materia, una tendenza, una come dire, appunto, un interesse, e né ci fosse una particolare predilezione per una materia, è considerato che è anche un'età di grande trasformazione, come si è detto prima, quindi di facili entusiasmi, esatto, oppure in alcuni casi magari il ragazzo manifesta un'intenzione che è un po' contraria rispetto al giudizio che gli viene dato dagli insegnanti, ora in un caso come questo quali possono essere appunto i suggerimenti, o comunque che tipo di ragionamenti dovrebbe fare la famiglia insieme anche al ragazzo? Perché io credo che lasciare totale libero arbitrio a un ragazzo di 13 anni, qualora appunto non ci siano chiari segni di... È un po' rischioso. La farei rispondere da Dell'Oro, che ne vede tanti di ragazzi, e quindi vedrà anche tanti ragazzi che non hanno appunto le idee chiare, non hanno una particolare predilezione per qualche materia e dunque per qualche scuola. In questi casi il genitore, che pure non vuole impicciarsi più di tanto, non vuole spingere più di tanto, intromettersi, cosa deve fare? Ma due considerazioni brevissime. La prima: beh, a scuola dobbiamo renderci conto che il principale protagonista dell'attività di orientamento, i principali protagonisti di un'attività di orientamento sono gli insegnanti e gli studenti, perché tante volte c'è questo principio di delega all'esterno, e questa è una cosa fondamentale, perché gli insegnanti conoscono questi ragazzi per 3 anni alle scuole medie, e quindi sono coloro che possono interagire, confrontarsi e ascoltarsi reciprocamente. Dopodiché l'attività di consulenza può consentire ai genitori, ai ragazzi, noi ne incontriamo tanti, di approfondire e di risolvere alcuni problemi e chiarire alcune cose. Faccio un esempio. Quindi a Mauro, per esempio, potremmo chiedere se a Varese c'è un ufficio giovani, un servizio di orientamento e così via. Che riceve di solito la figura genitoriale e il ragazzo, si parla un po' insieme. Tre sono i passaggi che devono fare comunque coloro che fanno un'attività di orientamento e di consulenza poi individuale, perché queste difficoltà si risolvono soprattutto poi in un momento di consulenza individuale, perché rappresenta una grande opportunità di conoscenza del ragazzo. Registrare con attenzione il quadro scolastico, le storie, i vissuti di questi ragazzi, come hanno vissuto la qualità delle relazioni, che figure significative hanno incontrato all'interno della scuola, come hanno vissuto la scuola primaria, come la chiamavamo noi, la scuola elementare, la scuola media. E poi, attraverso un'attenta lettura della comunicazione verbale e non verbale, cogliere alcuni tratti della personalità di questi ragazzi. Metto due o tre cose come proprio fondamentali: i livelli di consapevolezza sulle proprie capacità e difficoltà, la loro capacità di ascolto e un'eventuale resistenza o meno nel modificare il proprio modello organizzativo, la proprietà di linguaggio, la capacità critica. I ragazzi a volte ti sorprendono proprio per questa grandissima capacità che hanno di leggere i contesti scolastici. E la cosa che ci sorprende poi, perché stasera ne stiamo parlando un po' poco, ma teniamo presente che noi in questa attività di consulenza registriamo molti ragazzi che sono in difficoltà, sono in ritardo nei processi di crescita, di rimaturazione, di responsabilizzazione. Però troviamo anche troppe anime ferite. Anime ferite da una relazione educativa non adeguata, da giudizi improvvidi che molte volte gli insegnanti danno e da un sistema di valutazione che a volte è folle. Proprio io col Pessi del Pessina una volta discutevamo sul fatto di quel famoso zero più, ti ricordi? No? E il preside, l'insegnante preoccupato, il preside chiese: ma come mai lo zero, ma soprattutto perché il più? Beh, ho dato il più per incoraggiare il ragazzo. Insomma, c'è anche questa scuola che sulla quale dobbiamo dirlo che non ha proprio le carte in regola la nostra scuola. Io sono uno di quelli che aspetta una riforma della scuola, perché finora è stato fatto un atto contabile. Abbiamo tolto la scuola 7 miliardi 832 milioni di euro. Non solo, poi altri due dati velocissimi: siamo al 24esimo posto in termini di abbandono scolastico e al 22esimo posto fra i 27 paesi europei in termini di spesa sull'istruzione in rapporto al PIL. E questi dati non ci permettono di avere una visione positiva su questa scuola. Certo. Ivan Lombello, vicepresidente di Confindustria per l'Education, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie per essere qui con noi questa sera. Grazie a voi per l'invito. Allora, Confindustria da anni lavora moltissimo proprio sull'orientamento, con tantissime iniziative anche a livello territoriale in cui viene spiegata l'importanza, soprattutto in questi casi, degli istituti tecnici, perché insomma ce lo chiedono le università che in ambito umanistico sfornano ogni anno migliaia di disoccupati, purtroppo, e ce lo chiedono anche le aziende che anche in questo periodo di crisi comunque continuano a cercare tecnici specializzati senza trovarli. Allora, l'opera di Confindustria è abbastanza capillare, ma non si insiste mai abbastanza sui ragazzi. Non ci sono solo i licei? Sì, non ci sono solo i licei, ma volevo dire preliminarmente, insomma, che quando parliamo di orientamento scolastico parliamo ovviamente di scuola, di studio, ma anche di lavoro e sviluppo, cioè di una opportunità di lavoro per i giovani e di sviluppo complessivo per il paese. E noi abbiamo fatto qualche errore negli ultimi anni, cioè almeno dagli anni 70 in poi. Abbiamo pensato che le diseguaglianze sociali si potessero rimuovere attraverso la generale liceizzazione del percorso scolastico, e abbiamo un po' svilito il ruolo dell'istruzione tecnica e professionale, che invece sono stati un fattore determinante della crescita del nostro paese dopo la Seconda Guerra Mondiale. E quindi si è formata nell'opinione pubblica l'idea di un liceo di serie A, un'istruzione tecnica di serie B e un'istruzione professionale ancora più marginale nel paese. Questo purtroppo è avvenuto in Italia, non negli altri paesi europei, che invece hanno dato piena legittimazione a tutti i percorsi scolastici. E quindi questo ha determinato un problema significativo che lei peraltro ha sottolineato nella sua domanda. Oggi, nonostante la profonda crisi che sta attraversando il nostro paese, noi ci troviamo di fronte ad avere ancora oggi aziende che richiedono tecnici specializzati e non riescono a trovarli sul mercato. Ci sono profili professionali introvabili nel nostro paese, profili professionali che attraverso una buona istruzione tecnica potrebbero trovare un'occasione di lavoro e contribuire alla crescita del nostro paese. Questi sono i temi che un po' vanno affrontati. Poi voglio voglio in qualche modo dire un'altra cosa. Istruzione tecnica non significa impossibilità di accesso all'università. Oggi ci sono almeno il 50% dei ragazzi che finiscono un percorso di istruzione tecnica e vanno all'università anche con risultati significativi. Oppure agli istituti tecnici superiori che sono nati da poco, chiaro, no? Che sono degli istituti... Volevo dire anche questo, abbiamo da poco, ma stanno crescendo, una novità nel nostro paese che sono questi istituti tecnici professionali che sono un'istruzione. Una risorsa davvero molto importante. Una risorsa estremamente importante, basta pensare al ruolo che hanno avuto le strutture simili in Germania, in Svizzera, in Francia. La Germania è famosa per le Fachhochschulen, che sono gli istituti terziari che sfornano ogni anno tantissimi tecnici specializzati, e lì c'è un rapporto molto stretto fra l'istruzione terziaria e il mondo dell'impresa. Anche gli ITS oggi rappresentano un'alternativa per tanti ragazzi che hanno un percorso di istruzione tecnica. Ecco, noi dobbiamo essere molto più pragmatici. E poi mi faccia dire una cosa, il grande problema del nostro paese è che purtroppo spesso il dibattito sul tema della scuola è un dibattito ricco, importante, fatto di grandi testimonianze di persone che hanno una grandissima competenza su questo tema, ma è in larga parte un dibattito fra addetti ai lavori, e questo è molto diverso negli altri paesi. Negli altri paesi è un dibattito che riguarda l'intera opinione pubblica, la classe politica, il mondo economico. I miei colleghi tedeschi, francesi o di altre realtà discutono di questo tema perché è un tema centrale, lo è stato sempre nella storia del rapporto. Speriamo che lo diventi presto anche nel nostro paese. Lo so, noi dobbiamo non spostare, ampliare il dibattito all'opinione pubblica. Certo. Se c'è un tema con cui declinare le nuove politiche industriali in questo scenario di grandissimi cambiamenti, i temi sono sostanzialmente l'istruzione, ricerca e innovazione. Oggi questi temi non possono essere i temi un po' iniziatici di un gruppo di persone che si occupano di scuola. Può diventare una grande questione del paese. Angelo dalla provincia di Bergamo ha un figlio, lo leggo qui dal messaggio che mi arriva dalla regia, che vuole fare un istituto tecnico perché vorrebbe fare un istituto di trasporti logistici. È così, Angelo? Sì, è proprio così. Difatti ho ascoltato anche le parole che ha detto il rappresentante di Confindustria. Se per caso questo indirizzo potrebbe essere veramente un'opportunità di lavoro in futuro, insomma. Lo bello, risponda lei. Sì, oggi istituti tecnici, specialmente quelli di buona qualità, che in qualche modo hanno percorsi formativi che stanno molto in sintonia con le vocazioni produttive dei territori, oggi garantiscono un percorso lavorativo anche significativo. In particolare quindi... Angelo chiedeva se suo figlio, che è interessato ai trasporti logistici, insomma, possa avere qualche prospettiva di lavoro. Il tema della logistica e le competenze sulla logistica sono importanti nel paese, ovviamente dipende un po' dalle caratteristiche del settore produttivo locale, da tante altre realtà, però la logistica è un tema estremamente importante e forte nel paese. Anche lì sono richiesti molti profili su questo tema, ma come tante altre realtà, cioè nel senso che ripeto, oggi noi abbiamo in questo paese separato radicalmente la scuola dal mondo dell'impresa. L'impresa non ha la volontà di entrare nella didattica della scuola, l'impresa ha bisogno di una scuola autorevole, forte e indipendente, ma autorevole, forte e indipendente non significa separata totalmente dal mondo del lavoro. Gran parte delle scelte sbagliate che vengono fatte dai giovani, dalle famiglie, anche spesso qualche suggerimento di professori che hanno una grande capacità didattica ma forse non conoscono il mondo al di fuori della scuola, hanno portato in questi anni a far fare a ragazzi dei percorsi che ovviamente, insomma, non hanno trovato nessuno sbocco. E guardi, è un tema centrale. È certo che lo è. Io però mi voglio trasferire nella provincia di Verona, perché nella provincia di Verona c'è un istituto tecnico, l'ITIS Ferraris, di cui invito l'ex preside, perché da quest'anno è in pensione, però è stato lì per tantissimi anni, e l'ho voluto invitare perché mi ha dato un dato quando ci siamo sentiti. Buonasera, Dino Poli. Buonasera signora, buonasera a tutti. Mi ha fornito un'informazione l'altro giorno che mi ha lasciato veramente molto sorpresa. Lei si riferiva non all'anno scolastico che si è concluso a giugno, ma all'anno scolastico precedente. Quanti dei suoi ragazzi dell'ITIS Ferraris hanno trovato lavoro? Quelli che non sono andati all'università sono andati tutti a lavorare, naturalmente non tutti in posti fissi perché sono giovani, ma sono andati comunque nell'apprendistato e sono andati nelle aziende. E c'era già la crisi l'anno scorso, non è che era in tempi. Anche se Verona sta vivendo bene perché l'industria alimentare tira molto, ma parlare di industria alimentare significa che le scuole devono anche avere un riferimento anche nell'orientamento alle medie a quello che succederà nell'uscita, non solamente a quello che succede nell'entrata. Quindi noi abbiamo una grandissima attenzione come istituto tecnico, come istruzione professionale anche, a quello che succede dopo. Come preparo i ragazzi? Cosa devono sapere per andare a lavorare? Devono essere molto professionalizzati, diceva il signore per la logistica. Un buon meccanico può andare a lavorare anche nella logistica, nei trasporti, cioè i grandi settori sono 9 in questo momento nell'istruzione tecnica, industriale, tecnologica. Allora dobbiamo dare queste indicazioni, è quello che abbiamo fatto per tanti anni e che ci ha dato poi questi risultati. Da Verona ci spostiamo per andare in un altro istituto tecnico, così insomma apriamo e chiudiamo anche questo ampio capitolo dedicato a una parte della scuola davvero molto importante. Siamo un istituto tecnico di Brescia, Paola Melo, un'amica di Radio 24, l'abbiamo sentita tante volte. Buonasera. Buonasera, buonasera. Anche da lei, insomma, arrivano tanti ragazzi, escono, trovano anche lavoro? Moltissimi trovano lavoro in quanto l'istituto tecnico professionalizza di più, ma molti decidono di continuare nelle materie proprio di loro competenza, cioè materie agrarie, scientifiche, veterinaria, e sono molto, molto motivati. Un istituto tecnico credo che abbia questo pregio, ha gli svantaggi di non avere una formazione liceale, ma i contenuti sono molto specifici e motivano nel triennio i ragazzi ad avere già una mentalità di tipo professionale. Sì, quindi insomma chi è che deve andare al tecnico? Perché poi è vero che non c'è una formazione liceale, ma pazienza, non devono avere tutti una formazione liceale, non devono tutti tradurre dal greco, io non so tradurre dal greco e insomma mi sembra di sopravvivere, come dire. Ecco. Chi è che dovrebbe andare al tecnico? Perché insomma in terza media, al di là di tutti i bei discorsi che si stanno facendo, gli insegnanti guardano i ragazzi, se hanno dall'8 in su li mandano al liceo, se hanno 6 o 7 li mandano agli istituti tecnici, se fanno fatica li mandano ai professionali. È così anche nella sua scuola? Ha detto bene, esattamente le indicazioni sono un po' dozzinali, mi permetto di dire. Nella mia scuola arrivano dei ragazzi che sono stati indirizzati per non essere dei potenziali liceali, ma non hanno le materie per esempio scientifiche ben presenti, e questo li penalizza tantissimo, perché un tecnico ha bisogno, ecco questo è un consiglio che mi permetto di dare, di una base innanzitutto di attitudini alle materie scientifiche, e poi nella formazione è chimica, fisica, economia, matematica, disegno tecnico, quindi sicuramente un po' quello che si diceva il bernoccolo ci vuole. Ecco. Ci fermiamo per qualche istante, ascoltiamo un po' di musica così tiriamo un po' il fiato. Frenetiche, guarda qua, non vedo l'ora che sia università, volti diversi, grandi discorsi, e poi ti trovi già là. Tanto vedrete, con noi il mondo cambierà, sì, ma l'hai vista, chi è quella tipa là? Facce sconvolte, pianti e rivolte, domani poi si vedrà. Dimmi cosa c'è da fare per domani, un'interrogazione, un altro compito, dai detta. Sera da me, non ci sono i miei. Oh, ma com'è che quest'ora non passa mai? La campanella è la cosa più bella. che fuori ci porterà. L'autogestione tranquilli che si farà, certi argomenti richiedono serietà. Giovani attivi nei collettivi per non lasciarsi mai. Dimmi cosa c'è da fare per domani. Torniamo in diretta a parlare della scelta della scuola superiore all'800 24 00 24. Ha chiamato Silvia da Napoli. Buonasera Silvia. Volevo chiedere, io frequento la terza media di un istituto paritario, però comunque per il liceo vorrei uscire e andare in uno statale. Io sull'università ho già le idee molto chiare, vorrei fare la facoltà di farmacia, però sul liceo sono più incerta. Vuoi capire qual è il liceo che ti può aiutare a transitare poi verso l'università di farmacia? Sì, io inizialmente volevo fare lo scientifico, ho sempre desiderato fare lo scientifico, però andando avanti nello studio mi sto accorgendo che sono più portata verso le materie letterarie e quindi verso il liceo classico. Volevo sapere se anche il liceo classico va bene per questa facoltà che vorrei fare. Pessina. Ma assolutamente sì, il liceo classico è un'ottima scuola che permette di frequentare qualsiasi facoltà universitaria. Il dato che posso darti è che nella mia scuola più del 50% degli studenti va in facoltà scientifiche e si trova molto bene. Quindi se vuoi andare al classico va benissimo. Va bene, grazie. Invece un sms che è arrivato al 349-238-6666. Quale scuola ha più sbocchi lavorativi senza università? Dell'oro. Dell'oro ride. Sì. No, ma anche perché stiamo parlando di ragazzi che devono scegliere la scuola. Caricare eccessivamente di significato queste scelte. Ecco. Però detto questo, proprio in questi giorni le Camere di Commercio hanno segnalato i dati su quell'indagine straordinaria che il Sistema Informativo Excelsior fa ogni anno e che coinvolge oltre 100.000 aziende. Su 160 i diplomati sono quelli più richiesti, anche se hanno avuto un decremento importante dal 2008 a oggi, del 50%. I laureati sono quelli che hanno avuto un decremento minore. Però sui i diplomati richiesti, l'indirizzo amministrativo commerciale è quello più richiesto, ben 39.860 addetti. Subito dopo arriva l'indirizzo del settore industriale, 38.000 addetti. Però c'è un dato sul quale che noi non dobbiamo dimenticare, che è questo: in 67.000 casi, cioè le aziende hanno detto, cioè non hanno specificato il diploma. Perché noi non dobbiamo dimenticare che l'azienda non si comporta più come 20-30 anni fa. 20-30 anni fa facevi il colloquio, 6 mesi di prova, banalizzo un po', schematizzo, e poi il tempo indeterminato. Oggi un'azienda no, vuole verificare. Le aziende non si sentono più garantite dal titolo di studio, vogliono verificare se sotto quel titolo formale ci sono delle competenze. Allora quali sono le competenze professionali più richieste? La capacità di lavorare in gruppo, di relazionarsi con i clienti, l'adattabilità, l'adattamento, la flessibilità. Il problem solving per i laureati, ma ecco, allora, se queste sono le competenze richieste, io credo che possiamo interpretare anche diversamente, no, gli sbocchi professionali e come soprattutto vivere la scuola superiore. Ci fermiamo per qualche istante per la pubblicità, poi torneremo a parlare di Napoli. Remember the days at the old school yard, we used to laugh a lot. Oh, don't you remember the days at the old school yard? Remember the days at the old school yard? We used to laugh a lot. Oh, don't you remember the days at the old school yard? When we had imaginings and we had all kinds of things and we laughed and needed love, yes I do. Oh, and I remember you. Remember the days at the old school yard? Cry a lot. Oh, don't you remember the days at the old school yard? Ma ci sono tanti ragazzi, troppi ragazzi che la scuola si lascia scappare e allora devono intervenire dei supporti di varia natura, insomma, però bisognerebbe cominciare ad operare prima e questi ragazzi tenerli a scuola. Cesare Moreno, maestro di strada di Napoli, ne sa qualcosa di questi ragazzi. Buonasera. Moreno, mi sente? in qualche modo cercheremo di recuperarlo. E allora intanto sentiamo Loredana che ci ha chiamato da Roma all'800 24 00 24. Loredana, buonasera. Buonasera. Io volevo portare la mia esperienza. Sono un insegnante di un istituto tecnico commerciale per geometri in provincia di Roma, Palestrina, e mi occupo dell'orientamento in entrata da quest'anno. E noi abbiamo notato negli anni scorsi c'è stato un calo nelle iscrizioni, e questo in parte è dovuto al fatto che con la riforma c'è stato un po' di confusione, nel senso che ai due corsi tradizionali che tutti conoscevano, che sfornavano quindi geometri e ragionieri, si sono sostituiti questi due corsi con dei nomi nuovi ma non da tutti comprensibili. Per esempio il geometra adesso si chiama CAT, costruzione, ambiente e territorio, come AFM per amministrazione, finanza e marketing, che ha sostituito la ragioneria. Quindi le famiglie si sono trovate un po' disorientate, perché hanno pensato che i loro figli, dopo aver frequentato questi 5 anni, non avrebbero più potuto direttamente trovare uno spazio nel mondo lavorativo, ma avrebbero dovuto proseguire gli studi. E questo quindi lei dice, Loredana, insomma, nelle scuole bisognerebbe aiutare un po' di più i ragazzi e le loro famiglie che ci sono alle spalle a conoscere questi nuovi percorsi, molti dei quali in realtà poi hanno solo cambiato forse nome, però insomma bisognerebbe aiutarli un po' di più, questo dice lei. Certo, e anzi sarebbe bene che anche i colleghi delle scuole medie prestassero anche loro a studiare questi nuovi percorsi, perché io ho visto, specialmente nei giorni scorsi in cui sono andata nelle scuole medie, non hanno capito tanto fatto, neanche loro. Sì, che di fatto anche loro non sapevano di queste diversità, e quindi per esempio dicevano che per diventare geometra non bastava più questo nuovo diploma CAT, ma bisognava poi frequentare un altro corso triennale, una laurea breve. Ha ragione Loredana, c'è molta confusione su questi nuovi percorsi, in effetti ci dobbiamo prendere un po' tutti confidenza. Grazie mille per aver posto l'accento comunque su un fatto importante. Noi torniamo però a Napoli, perché forse abbiamo recuperato Cesare Moreno. Buonasera. Buonasera. Ecco, quando ho tentato di presentarla, perché lei mi è sparito dal telefono, dicevo che insomma questa scuola lascia scappare troppi ragazzini, e lei ne sa qualcosa, perché poi tenta di recuperarli, di riavvicinarli, di riacciuffarli in qualche modo. Ma come mai la scuola se ne lascia scappare così tanti? Cos'è che non funziona? Bella domanda, Bella domanda. Quando c'è un divorzio, io dico, sono colpevoli entrambi, quindi la situazione è che la scuola non li capisce e loro non capiscono la scuola. Allora, i ragazzi arrivano a scuola prevenuti perché hanno esperienze negative con gli adulti in genere, e quindi arrivano a scuola prevenuti. La scuola è convinta di avere a che fare con degli studenti, cioè con delle persone che intendono studiare, e in realtà ha a che fare con delle persone e basta, e quindi che portano a scuola una pluralità di bisogni. Ecco, ma è importante un lavoro fatto molto bene, soprattutto alle medie, io credo, perché è un'età delicata in cui ragazzi possono davvero ancora essere recuperati. Poi quando diventano più grandi forse diventa sempre più difficile, è così, è una mia impressione? No, da un lato è vero, dall'altro noi sappiamo per esperienza che anche i ragazzi, perché noi lavoriamo alle medie, però in realtà abbiamo ragazzi che dovrebbero essere al primo, al secondo superiore, perché abbiamo a che fare con ragazzi di 15-16 anni, e quindi sappiamo che certamente è difficile stabilire una relazione con questi ragazzi. Però è anche vero che persone che vengono fuori da un lungo digiuno di buone relazioni basta molto poco per conquistare una fiducia, fin troppo. Ecco, noi stavamo parlando proprio durante un'interruzione con i miei ospiti di questo problema, cioè la mancanza di relazione con gli insegnanti. Lei di loro parlava di anime ferite prima. Ma come mai tanti insegnanti non riescono a entrare in relazione? Cioè, dovrebbe essere anche quello il loro lavoro, no? Di volergli bene a questi ragazzi, insomma, di cercare di capirli, di cercare di guardarli negli occhi, piuttosto che mettergli il 2, il 3, il 6 o l'8 anche. Sì, al di là di un sistema di valutazione che a volte è folle, il problema è che non si diventa insegnanti solo perché uno prende una laurea o fa due master. Uno deve sentirlo dentro, è lì che si annida il carisma, cioè deve provare piacere a stare con questi ragazzi, con gli adolescenti, perché deve essere una figura significativa. L'insegnante è quello, io mi rendo conto che è un lavoro, è una professione molto complicata e difficile, però l'insegnante deve trasmettere... Anche molto usurante. Esatto, esatto, è vero, però l'insegnante deve trasmettere la magia di una materia, deve saper coinvolgere la classe. Quando l'insegnante riesce a essere una figura significativa per questi ragazzi, beh, i ragazzi riescono anche a dare il meglio. Poi, per l'amor di Dio, a volte la scuola deve anche farsi carico di una serie di problemi che richiamano problemi sociali e così via. E come diceva Pessina, insomma, se un ragazzo arriva in terza media e ancora non sa che scuola fare alle superiori, vuol dire che non ha funzionato qualcosa anche nelle relazioni con gli insegnanti, perché non hanno acceso nessuna passione, forse. Sì, noi prima si parlava dell'orientamento come di un'attività da fare in questo periodo, perché bisogna scegliere una scuola piuttosto che un'altra. In realtà l'orientamento è un fatto, come dire, istituzionale, rientra nell'educazione in senso lato della scuola. La scuola ha proprio il compito di orientare i propri studenti. Orientare vuol dire far emergere le loro potenzialità, le loro capacità ed anche i loro limiti. E allora, se dopo tutti questi anni, perché in terza media vuol dire che hanno già fatto 5 più 3, quindi 8 anni di scuola, se dopo tutti questi anni non sono ancora in grado di capire che cosa vogliono fare da grandi, uso questa espressione un po' infelice ma per farmi capire, beh, forse la scuola ha sbagliato qualcosa. Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva, buonasera. Buonasera. I nostri ascoltatori ti conoscono benissimo, non avevi quasi bisogno di presentazione. Alberto, in questo periodo nelle famiglie, nelle case si litiga a cena, a pranzo, a colazione, figli che si chiudono in camera, giornate di mutismo. Come bisogna fare per arrivare ad una scelta in qualche modo condivisa? Insomma, questi ragazzini, perché sono state molte le domande anche dei genitori che hanno chiamato, se i ragazzini non hanno le idee chiare, come fare ad impostarli, ad aiutarli? Ma è vero, in questo periodo c'è davvero tanto fermento nelle famiglie. Direi che forse una cosa che come genitori non vorremmo mai è sentirci dire un giorno dai figli: è stata tutta colpa tua se ho fatto una scuola che non mi interessava. Ecco, questo allo davvero sarebbe da evitare, certo. E allo stesso tempo una delle cose che consiglierei ai genitori è quella: moltissimi ragazzi tipo hanno già un'idea fin troppo chiara e quindi non esplorano niente, oppure si lasciano proprio guidare e vanno là dove vengono inviati. Io direi che forse il compito principale di un genitore in questa fase della vita di un figlio è proprio quello di accompagnarlo nell'esplorazione. Secondo me farlo partecipare a tanti open day, se ha già le idee chiare, la scuola che voglio fare è a quell'indirizzo, ecco, lo porto in più scuole che hanno quell'indirizzo. Se non ha ancora le idee chiare, lo faccio proprio esplorare tanti territori diversi e mi metto a disposizione per lunghe discussioni. Magari credo che questa, che è una zona di passaggio importantissima della vita, l'ultima cosa che vorremmo vedere è un figlio passivo, demotivato o davvero che non prova a capire che cosa significa orientarsi. Quindi, insomma, se anche ha scelto, lo dobbiamo portare a vedere le scuole, spingerlo comunque a capire se davvero la scelta che ha fatto è giusta, e se invece è troppo passivo, insomma, cercare di spronarlo un po'. Però a quel punto ci dobbiamo fermare. Sì, cioè non è poi, credo che poi gli vada proprio un po' restituita l'idea che c'è una corresponsabilità del genitore, ma non c'è un'unica responsabilità, è che la responsabilità più forte sta proprio nella sua motivazione, nel suo fare un percorso di ricerca. L'altra cosa che mi sento di dire è che tante volte i ragazzi fanno delle scelte un po' affettive, cioè vanno là dove ci sta il loro migliore amico, scelgono quella che noi psicologi abbiamo trovato un papà in crisi perché sua figlia voleva scegliere la scuola della sua amichetta, insomma, invece noi gliel'abbiamo sconsigliato ancora prima di sentirti. Esatto, ecco, questa è proprio un'altra cosa su cui vanno proprio sostenuti i figli. L'ultimo l'ultima cosa che mi sento di dire questa volta ai docenti è che davvero quando i ragazzi però entrano poi nei primi giorni della loro scuola superiore vanno un po' tenuti per mano. A me è capitato più volte di avere in terapia proprio ragazzi che nella prima superiore erano persi non dal punto di vista didattico ma proprio confusi dal punto di vista relazionale, con la fatica di dover stare in un intervallo dove non avevano nessuno con cui chiacchierare, con la fatica di nascondersi dentro un bagno per aspettare la campanella d'inizio scuola, perché per loro stare in quella fatica di non avere nessuno con cui parlare, stare seduti in un banco dove nessuno li guarda, ecco, quella era la cosa che aveva reso terribile per loro l'inizio della scuola superiore. Grazie Alberto, grazie mille. Abbiamo fatto arrabbiare un insegnante, suppongo che sia un insegnante. Siete pessimi, voglio vedervi 10 minuti in aula, porsi due domande sul fatto che i primi educatori dovrebbero essere i genitori, no? Nessuno ha detto che i genitori non hanno colpe, però insomma ogni tanto gli insegnanti dovrebbero forse... C'è un dato critico che è proprio evidente, tante volte i genitori fanno pressioni indebite su questi ragazzi, pressioni indebite che poi noi registriamo nelle richieste di aiuto che provengono, guarda caso, dalle ragazze e dai ragazzi iscritti alle scuole superiori. C'è un dato che dovrebbe farci riflettere: su un campione di quasi 600 studenti, bene, il 56% di queste richieste proviene dai ragazzi e dalle ragazze iscritti ai licei, e indagando e disaggregando questo dato, il 74% proviene dalle ragazze e dai ragazzi iscritti al classico e allo scientifico, 23% liceo classico, il 45% allo scientifico e un 6% allo scientifico scienze applicate. Attenzione, non sto dicendo non iscriviamoci al classico o lo scientifico, dico solo che questo dato è un dato critico inversamente proporzionale a alcuni livelli di dispersione scolastica che abbiamo in qualche istituto tecnico, in qualche istituto professionale, ed è un dato che richiama perlomeno alcune chiavi di lettura, scelte a volte non consapevoli, pressioni indebite da parte dei genitori, però anche una scuola, mi dispiace per quell'insegnante, non sempre adeguata, perché bisogna fare qualche riflessione su questa scuola. E noi torniamo a parlare di questo momento così importante della scelta delle scuole superiori. Lo facciamo collegandoci con Genova. Genova è una città che stasera non abbiamo toccato. Buonasera Cristina. Buonasera, buonasera. Ascolti, noi abbiamo un figlio di 13 anni che si è assolutamente innamorato della chimica. Sta frequentando presso la sua scuola media un laboratorio di chimica. È bravino in italiano e anche in matematica. E si è avuto una folgorazione per l'Istituto Tecnico Agrario. Tenga conto che noi abbiamo fatto studi assolutamente diversi. Papà è laureato in lettere, mamma in giurisprudenza, quindi assolutamente molto diversi. Esattamente. Noi pensiamo assolutamente che sia probabilmente la scelta vincente in questo momento, perché l'agricoltura, dobbiamo tornare all'agricoltura in qualche maniera, però ci chiediamo, nonostante comunque qualche diciamo muso arrabbiatura i primissimi giorni, perché cercavamo comunque di riportarlo verso il liceo scientifico, ma non c'è stato assolutamente verso, perché ci rendiamo conto che, o comunque temiamo che ci possa essere qualche problema a livello di studio di programmazione, comunque dell'italiano, delle materie umanistiche, della storia. Avrebbe preferito un classico, insomma. No, un classico uno scientifico. Almeno la filosofia, bella storia. Ecco, proprio la domanda è anche un po' di latino. Sì, decisamente. Un po' di latino ce lo vuole. Daniele, che cosa possiamo consigliare a Cristina? Rispondo io perché porto la mia esperienza personale. Io sono laureato in ingegneria aeronautica, però ho seguito la mia passione, che era appunto scuola.net. Abbiamo creato questo sito Tre Banchi di Scuola, e quando quindi abbiamo fatto crescere questa che poi è diventata un'azienda, i nostri genitori non capivano, proprio perché con una laurea in ingegneria dicevano appunto che dovevamo andare a lavorare in azienda, pensavano che fosse una professionalità sprecata. Quindi per noi è stato molto difficile convincere i nostri genitori che invece era una scelta ponderata, che in quel momento il mercato richiedeva quello, e quindi di provare a fare gli imprenditori imprenditori, nessuno nella nostra famiglia aveva provato a intraprendere quella strada, quindi per noi è stato molto difficile convincere i nostri genitori. Però ecco, come è stato detto prima, poi è stata una scelta vincente. Oggi è un'azienda che dà lavoro a 15 ragazzi. Quindi diciamo a Cristina di lasciarglielo fare questo tecnico, sì, agrario. Il mio consiglio è quello che se un ragazzo ha una passione, e per quello diceva prima, si è innamorato della chimica, quindi se ha una passione sicuramente riuscirà ad emergere in quel settore nel quale si va a posizionare, quindi assolutamente non ostacolarlo, non metterlo in percorsi obbligati e in cliché, perché questo potrebbe essere controproducente. Apriamo adesso un discorso molto importante, lo facciamo collegandoci con Salvatore Nocera, che è vicepresidente dell'associazione FISH, la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, ed è anche membro dell'osservatorio presso il Ministero dell'Istruzione proprio sull'integrazione. Buonasera Nocera. Buonasera a loro. E in questi casi la scelta è ancora più difficile, naturalmente, perché ci sono degli oggettivi limiti che vanno comunque tenuti presente. Però come ci si deve comportare in questi casi? Perché è anche vero che non si devono, a mio parere, ovviamente su questo vorrei sentire lei, imporre delle scuole solo perché hanno strutture più adeguate, eccetera. Bisognerebbe anche, quando la situazione ovviamente lo consenta, mandare questo ragazzo con problemi di disabilità anche alla scuola che desidera, o no? Questo certamente. C'è però da fare un passo indietro prima, cioè le famiglie hanno un grande terrore quando si tratta di scegliere il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore. Infatti noi abbiamo molti casi di ragazzi che non vanno mandati agli esami dalle famiglie perché possano continuare a rimanere nella scuola media. Perché fino alle medie si resta in un ambiente un po' protetto, così si pensa, insomma, no? Sì, è questo che si pensa. E c'era una norma che facilitava questo fatto, che è l'articolo 14 della legge 104 del 92, la legge quadro sulla disabilità, perché quando fu fatta nel 92 l'obbligo scolastico cessava alla terza media e allora si diceva lasciamoli stare qua e poi si vedrà, mentre dopo abbiamo avuto l'obbligo che è stato spostato sino al compimento del 16° anno d'età, e allora era opportuno che i ragazzi facessero l'esperienza anche della scuola superiore, e per questo ci fu addirittura una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 87, che finalmente garantisce il diritto di passare alla scuola superiore. Che tipo di scuola superiore? E qui abbiamo notato che sin dall'inizio c'è stata una deriva prevalentemente verso gli istituti professionali. Noi abbiamo attualmente circa l'80% degli alunni con disabilità che vanno agli istituti professionali. Perché si faceva questo? E si continua a far questo? Perché si pensa che l'istituto professionale svolge attività prevalentemente operative più che di intellettualità astratta, come sono i licei per esempio, dove si pensa che gli alunni con disabilità intellettiva trovino grosse difficoltà, e oggettivamente questo è vero, però bisognerebbe anche tener conto che ormai la normativa consente dei percorsi misti di istruzione e formazione professionale, quindi il liceo, che è anzi dotato di personale che ha una formazione umanistica di base, quindi può conoscere meglio le tendenze, le caratteristiche, le possibilità delle persone anche con disabilità, dovrebbe aiutare le persone con disabilità a poter fare anche questi percorsi misti, quindi non temere che il liceo sia solo riservato agli intellettuali. Certo, insomma, argomento affine, anche se molto diverso per certi aspetti, è invece quello dei disturbi specifici dell'apprendimento. Siamo sempre nell'ambito di ragazzi che presentano alcune problematiche, naturalmente in questo caso non si parla di vera e propria disabilità, e noi siamo in collegamento con Viviana Rossi, che ha insegnato in un sacco di scuole elementari, medie, è stata anche dirigente scolastica, ma soprattutto si occupa di formazione degli insegnanti per l'Associazione Italiana Dislessia. via. Questi ragazzi, buonasera signora Rossi. Buonasera. Vanno aiutati in che modo e soprattutto in che modo vanno aiutati in questo momento specifico nella scelta delle superiori? Allora, io devo subito precisare che sono ragazzi che non hanno disabilità. Il loro è un tipo diverso praticamente di far funzionare il loro cervello. Diciamo che è una neurodiversità. Quindi non possiamo equipararli assolutamente ai esattamente, ragazzini, diciamo. Esattamente quello che abbiamo detto. Sì, certo, disabili anche se siamo tutti diversamente abili, perché siamo tutti diversi, diciamo, no? Però certo. Siccome è un disturbo che riguarda la capacità di leggere e di scrivere in modo corretto e fluente, è proprio nella scuola che loro hanno delle problematiche. Ora, se però la scuola è una scuola che è una scuola diversa, non una scuola tradizionale, una scuola in cui si lavora in modo più attivo, e non è detto che lo sia sempre un professionale, anche perché ormai i professionali hanno un mucchio di materie, per cui io qui davanti appunto l'elenco delle materie di un liceo classico, l'elenco delle materie di un istituto professionale aziendale sono quasi il doppio, hanno anche delle lingue straniere eccetera, e quindi non è facile comunque. Ma io sono d'accordo con il ragazzo che ha parlato prima del dottor, dell'avvocato Nocera, bisogna lasciare scegliere ai ragazzi. Il ragazzo quindi, se è consapevole delle proprie difficoltà, delle proprie diversità e ha delle aspettative, perché la sua è una vita che può arrivare fino all'università, cioè lui, a parte che sono molto diversi i ragazzini, hanno un grado diciamo di disturbo specifico diverso, possono avere un QI alto. Quindi insomma bisogna poi valutare anche caso per caso, però insomma è giusto che facciano la scelta che gli è più vicina e non la scelta che gli viene in qualche modo imposta per facilitargli il percorso, questo possiamo riassumere così? Certo, il fatto di puntare su quello che vogliono fare come valido per tutti gli altri è ancora più valido. Deve essere per valido anche per loro. Grazie mille a Viviana Rossi, e stiamo arrivando a conclusione di questa puntata. Vorrei fare un giro di tavolo davvero da 30 secondi. Iniziamo da Pessina, Innocente Pessina, preside del Bercè. Dall'alto della sua esperienza di un liceo classico, chi è che dovrebbe e non dovrebbe venire in una scuola come la sua? Chi pensa che la scuola sia un incidente di percorso, sia solo una grande seccatura che purtroppo devi fare. Comunque un liceo classico è un liceo che prevede uno studio, che prevede un'attenzione, che prevede soprattutto la condivisione di un progetto educativo importante. Quindi rifletterci molto bene. Daniele, in una parola, come bisogna sceglierla questa scuola? Però rivolgiti ai ragazzi. Beh, per i ragazzi seguire i sogni, ecco, sicuramente c'è un detto che dice che se uno guarda il cielo, ecco, magari non arriva alle stelle, però sicuramente non cade a terra. Dell'ore, se poi precipita questo ragazzino dal cielo? Beh, le scelte non sono mai irreversibili, eh? Si può riprendere il cammino e reimpostare quel nuovo percorso. Non drammatizziamo, può anche capitare assolutamente. Che si sbagli. Semmai un consiglio soprattutto per gli insegnanti, visto che magari abbiamo attivato la sensibilità di qualche insegnante. Ecco, dobbiamo togliere una condizione di base che purtroppo è presente nelle scuole. A volte siamo talmente preoccupati di questi ragazzi che interveniamo stigmatizzando soprattutto quello che non devono fare, invece che valorizzare percorsi di formazione che invece corrispondono di più ai loro stili cognitivi, alle loro attitudini, alle loro storie, ai loro vissuti. Questo è un punto cruciale, a mio modo di vedere, in una politica di orientamento. Se posso 10 secondi, Pessina. 10 secondi, con una battuta è questo. Mi è capitato tempo fa di avere il lavandino otturato. Non avevo bisogno di un filosofo, ma di un idraulico. E per me l'idraulico in quel momento era la persona più importante di questo mondo. Ha proprio ragione. Grazie ai miei ospiti per avermi aiutato, per avervi aiutato in questa decisione, o così speriamo. Ringrazio in redazione Massimo Brugnone, in regia Valeria Bernardi, e vi lascio a GR24. Scuola in controluce. Speciale verso le superiori.